Montecitorio e dintorni. Di Elisabetta Fiorito. Buon pomeriggio, questo pomeriggio Montecitorio e dintorni va a Palazzo San Macuto, sede della Commissione di Vigilanza RAI, e noi incontriamo il Presidente della Commissione di Vigilanza, Roberto Fico, del Movimento 5 Stelle. E subito chiediamo, dopo un po' di mesi che si è insediato, la TV pubblica funziona? Ci sono spese che si possono tagliare? Più servizi per i cittadini? Che si può fare per migliorare la situazione? Salve a tutti, io le dico prima di tutto un dato, che la RAI dà 1 miliardo e 300 milioni di euro in appalti esterni, pur avendo 13.000 dipendenti, quindi sicuramente il flusso dei soldi pubblici dovrebbero andare, secondo me, molto di più nella valorizzazione, nella formazione delle risorse interne, in modo da fare programmi che siano sviluppati totalmente all'interno della RAI. E se poi c'è qualcosa proprio che non riusciamo a fare, lo andiamo a prendere dall'esterno, che mi sembra veramente il minimo su questo. Lei ha anche denunciato delle sponsorizzazioni a dir poco sospette, ci può fare qualche esempio? Sì, proprio ultimamente la RAI sta scrivendo un contratto commerciale con Comunione Liberazione. La RAI garantisce a Comunione Liberazione 750.000 euro, ovvero 250.000 euro all'anno, per avere un'esclusiva sui suoi meeting d'estate a Rimini. Per me questa è un'assurdità totale ed è anche un qualcosa di veramente vergognoso, perché è come se oggi sappiamo che tra poco c'è il V-Day e come Movimento 5 Stelle chiedo 400.000 euro alla RAI per seguire l'evento. Ma non dovrebbe essere interesse di queste associazioni oppure di movimenti politici avere la RAI all'interno? Perché la RAI deve pagare per seguire un meeting che è un meeting che conosciamo tutti, può essere interessante, meno interessante, però non ha senso che la RAI paghi per essere lì. E Comunione Liberazione che scrive alla RAI, dice: come ufficio stampa noi vogliamo che vi garantiamo una postazione, non viceversa. Quindi per me è una sorta di finanziamento non comprensibile. Spero che la RAI torni indietro da questo punto di vista. Ecco, un'altra delle vostre battaglie era quella sui costi, no? Anche delle redazioni, di questi vice direttori che prolificano, oppure direttori generali di rete, di testata, che non si capisce mai bene che cosa facciano. Insomma, si riesce a tagliare qualcosa oppure non si riesce poi a vedere la fine di quello che è un sistema da manuale Cencelli, da pentapartito, ex Prima Repubblica, dove ogni partito aveva la propria casella? Noi dobbiamo abolire prima di tutto in questo paese la cultura della lottizzazione. Noi abbiamo una cultura che lottizza la televisione pubblica, abbiamo dei partiti che costantemente hanno lottizzato negli ultimi 20 anni, anche di più, la televisione pubblica. Questo è un atteggiamento che deve finire, e può finire in vari modi, per esempio facendo una riforma parlamentare sull'elezione nuova del modello di governance della RAI. Non possiamo più eleggere i consiglieri di amministrazione in questo modo, che poi eleggono un direttore generale che in realtà è eletto dal presidente del Consiglio dei Ministri, e poi a seguito vanno tutte le altre nomine per la divisione e la lottizzazione della TV pubblica. Questa cosa deve finire, e come movimento proporremo una legge parlamentare affinché questo modello venga totalmente cambiato. Quando lei è stato eletto Presidente della Commissione di Vigilanza, qualcuno in RAI si è fatto sotto per dire: ma il Movimento 5 Stelle non vuole le sue pedine, non vuole, non so, i suoi giornalisti, i suoi vice direttori, magari qualcuno vicino al Movimento che lo segua? C'è stata qualche proposta in questo senso? Noi davvero vogliamo cambiare, vogliamo andare oltre, realmente. Sì, ma gliel'hanno fatta? Nessuna proposta rispetto a questo, anche perché sanno che siamo interlocutori totalmente diversi, e quindi poche persone si, diciamo, azzardano a venire a chiedere un qualcosa del genere. Noi vogliamo cambiare, vogliamo andare oltre, vogliamo una rivoluzione che sia prima di tutto culturale, e quello che noi non vogliamo non lo facciamo. Se noi non vogliamo i finanziamenti pubblici, non aspettiamo una legge, ci rinunciamo. Se noi vogliamo l'abolizione delle province, non ci candidiamo alle provinciali. Noi siamo coerenti con quello che diciamo. Allora, lei ha parlato giustamente di un finanziamento riguardo a CL che lei giudica comunque sospetto e ha parlato anche però dell'evento al quale il Movimento 5 Stelle si sta organizzando ed è il V-Day, il terzo V-Day a Genova. Una Genova, ricordiamo, piegata anche dagli scioperi dei giorni scorsi. Intanto ci sarete in piazza voi parlamentari e come vi siete finanziati, visto che si parla di finanziamento, e adesso che siete in Parlamento, che cosa andate a fare in piazza? Che cosa direte ai vostri sostenitori? C'è una novità assoluta. Per la prima volta in piazza e quindi con le persone ci saranno tutti i parlamentari. Non saranno dietro una transenna o saranno sul palco a parlare. Saranno in piazza con dei punti informativi rispetto alle commissioni competenti a spiegare la loro attività. Io come presidente di Vigilanza Rai dalle 10 di mattina fino alle 8 di sera sarò nel mio punto informativo a spiegare l'attività della vigilanza e di quello che ho fatto in questi 6 mesi a tutti i cittadini. Non sarò sul palco, non sarò dietro una transenna. Io mi immagino magari un Bersani oppure un Fitto che sono in piazza a spiegare ai cittadini che cosa hanno fatto in questi 6 mesi. Questa è una rivoluzione. Questa è una rivoluzione. L'appuntamento dov'è e da che ora? È in Piazza della Vittoria a Genova dalle 11 di mattina fino alle 20:30. E sul finanziamento, noi ci siamo finanziati con libere donazioni spontanee dei cittadini tramite la rete e abbiamo raccolto in pochissimo tempo, neanche un mese, 200.000 euro, 210.000 euro, pari a una media di 20 euro a cittadino. Non vi siete pentiti di questa idea della democrazia che uno più uno vale uno dopo le gaffe sulle sirene, sui microchip sotto pelle, sul kamikaze che bisognava commemorare, su Osama Bin Laden forse non morto? Non abbiamo mai detto che il kamikaze andava onorato. Questa è un'interpretazione fatta in mala fede dalla stampa italiana, lo assicuro perché ho ascoltato benissimo l'intervento di Manuela Corda. Le sirene era una provocazione scritta in un post su Facebook, quindi tante cose non sono assolutamente vere. Uno vale uno dando la propria passione, il proprio tempo. Ogni cittadino può scegliere, può decidere. Noi stiamo attuando un passaggio tra democrazia rappresentativa e democrazia diretta e lo dimostra anche l'applicazione nuova che abbiamo noi, dove tutti i cittadini oggi possono modificare le leggi che noi proponiamo online. Non si era mai vista prima nella storia del mondo e oggi l'Italia ha un patrimonio culturale molto forte, che ha una capacità e costruzione di futuro, che è il Movimento 5 Stelle. Ma il reato di immigrazione clandestina, come va questo referendum sul web, visto che c'era un po' di differenza tra quello che pensa Beppe Grillo e quello che pensa la maggior parte dei parlamentari 5 Stelle? Noi anche su questo, è una cosa molto semplice, è uno degli argomenti in cui in campagna elettorale nel programma non l'avevamo affrontato. In questo momento noi la stiamo affrontando tutti quanti assieme con un'ampia partecipazione dove tutti possono decidere e dire la loro, perché il movimento non è il gruppo parlamentare solo che è all'interno del Parlamento, ma sono tutti i cittadini che ci hanno votato, sono tutti i cittadini che vogliono partecipare e quindi tramite questa consultazione noi arriveremo a un punto, a una discussione vera era sull'immigrazione in generale, che non è solo il reato di clandestinità, ma è qualcosa di molto molto complesso. Allora ringraziamo Roberto Fico, presidente della Commissione Vigilanza Rai, esponente e deputato cittadino del Movimento 5 Stelle, mai chiamarvi onorevoli, e soprattutto qui a Palazzo San Macuto. Ricordiamo per i sostenitori del Movimento 5 Stelle, ma anche per gli avversari se vogliono andare a fare un salto, questo appuntamento del V-Day di Genova. Grazie. In alto i cuori.